Si fa un gran parlare dell'ingresso di Silvio Berlusconi nel cosiddetto agone politico. La cosa scandalizza come se fosse la prima volta, no, che il potere economico escogita i mezzi più opportuni perché in sede politica si effettuino poi le scelte che più possono favorirlo. Grosso modo si può affermare con certezza invece che qualsiasi proposta politica nasce a protezione di un interesse economico, per lo più l'interesse di pochi, qualche rara volta l'interesse di molti, mai, ma rigorosamente mai, l'interesse di tutti. In relazione all'iniziativa di Berlusconi ci si potrà pur tuttavia preoccupare legittimamente della crescita selvaggia nella giungla politica di questi anni di un'ignoranza e di una protervia senza veli, ma per chi ha vissuto i 50 anni che da Scelba e Fanfani, tanto per dirne due, hanno portato a Scalfaro, Craxi e De Mita, tanto per dirne tre, questa preoccupazione è destinata a non superare il livello del momentaneo prurito mentale. Le preoccupazioni serie che i personaggi odierni suscitano sono ben altre. Si prenda il caso del signor Rocco Buttiglione, filosofo pontificio fino ad ora scampato alle retate, bel esempio di fondamentalista casalingo. Anche lui è per ragioni sicuramente diverse dalle nostre preoccupato dell'arrivo di Berlusconi, allora vorrebbe fermarlo. Dichiara dunque ai giornali, come fermarlo non lo so, ma possiamo garantirgli solo qualcosa di lecito, evitare che le sue aziende vengano strangolate dai debiti e dalle banche, punto. Le aziende produttive vanno sempre difese. E bravo Buttiglione quando si dice il nuovo che avanza. Dalla sua dichiarazione io capisco quanto segue. Allora, lui e i suoi amici di Comunione e Fideiussione hanno in mano le banche che attualmente sanano i debiti di Berlusconi. Se lui sta buono buono, queste continueranno a sanare. Se no, sono cavoli suoi. Se lui sta buono buono, quelle sue aziende che fanno debiti vengono chiamate aziende produttive. Se no, attenzione, sarà meglio parlare di bancarotta fraudolenta. E bravo Buttiglione quando si dice il nuovo che avanza, eh? Magari a braccetto con Rosa Bindi, Rosi per i chirichetti, tutta gente che del vecchio regime al massimo ha seppellito qualcuno dei suoi caduti, nemmeno tutti, ma in quanto a metodi e scopi è gente che preferisce andare sul sicuro.